Non solo non è sufficiente, ma dobbiamo lavorare duro per cambiare le cose sempre di più. Però bisogna ricordarsi sempre che la situazione è cambiata solo da 14 anni. Nel racconto Il Terzo Senso, lei racconta la storia di una donna che scopre che suo marito l'ha tradita. Questa donna però decide di non dire a suo marito di aver scoperto il tradimento. Perché? Presumo che in una situazione del genere occorra far finta di niente se si vuole salvare il rapporto. La moglie pensa che il suo rapporto durerà molto più di una relazione passeggera. Non è un parametro di giudizio da parte mia, perché io guardo e vedo che in situazioni simili alcune donne si comportano in questo modo, mentre altre reagiscono in maniera differente. Ma non voglio giudicare nessuno. C'è un racconto che si intitola Sognando i morti. Che rapporto lei ha con l'idea, con il concetto di morte? Sono atea e sono convinta che abbiamo solo questa vita. Questa per me è la fine di tutto. C'è un libro che nella sua vita l'ha salvata da un momento difficile o l'ha consolata in un momento particolarmente duro? No, not a particular book, but literature. No, non un libro in particolare, ma la letteratura nel suo complesso. Leggendo ho imparato molto sulla vita, ho riflettuto sul mistero della nostra esistenza, chi siamo. Tutto questo attraverso i grandi scrittori che ho letto. Siamo arrivati ad uno degli spazi che mi piace di più del Cacciatore di Libri in questo periodo e che è lo spazio dedicato ai festival. Non finirò mai di ripetere che l'estate è un'ottima occasione per andare, per frequentare, per assistere a festival culturali veramente di tutti i tipi che si concentrano soprattutto in questo periodo. E infatti dal 26 luglio, da sabato 26 luglio a domenica 3 agosto, quindi per ben una settimana, c'è il Cortona Mix Festival. Festival che si svolge appunto a Cortona, provincia di Arezzo. Siamo in Toscana e siamo con Andrea Laurenzi, che è il presidente del comitato Cortona Cultura Mix Festival. Allora, che caratteristica ha questo festival? Beh, già dal titolo Mix si capisce che mescolate un po' di cose. Che cosa? Sì, noi la nostra mission, che quest'anno devo dire abbiamo anche spinto più avanti possibile, è quella di non fermarci di fronte agli steccati che ogni arte naturalmente costruisce attorno a sé, quindi noi mischiamo volutamente cercando di percepire tutto quello che il mondo ci spinge a fare, nel senso la nostra ci sarà una commissione totale tra cinema, letteratura, danza, musica, incontri, anche alta cultura, parleremo di arte rinascimentale, ma parleremo di fumetti, parleremo di musica classica, ma parleremo anche di rock giovanile, di elettronica, di grande star degli anni 70, insomma cerchiamo veramente di dare uno spaccato di quella che è la cultura, l'arte, la musica internazionale a Cortona, anche perché la città ce lo permette, perché è una città da una storia millenaria. Oltre avete una città splendida, questo possiamo dirlo. Io sono particolarmente affezionata al Cortona Mix Festival perché questa è la terza edizione e sì, ci sono stata fin dalla prima, quindi mi sento un po' parte, sembro un po' embedded nella cosa. Però a parte gli scherzi, è un festival veramente molto bello, perché appunto a parte si parla di libri, si parla di letteratura, ma poi probabilmente anche perché c'è anche tanto turismo straniero da quelle parti, americano e inglese, ci sono diciamo performance che possono essere viste anche senza comprendere l'italiano. Assolutamente sì, è una nostra scelta, a parte che poi anche gli stranieri spesso sono anche molto curiosi, quindi si avventurano anche in terreni magari lontani da loro dal punto di vista linguistico, però il nostro programma è fatto in gran parte da ospiti stranieri o comunque da performance artistiche che non necessitano la conoscenza di una lingua in particolare, quindi è chiaro che un'esecuzione di musica classica della nona di Beethoven con un coro e orchestra con 100 elementi è internazionale, o il suono di Steve Hackett, oppure parlare con Daniel Pennac piuttosto che parlare di danza oppure di razzismo, cioè sono linguaggi universali. Su questo ci teniamo, anche perché, come ricordavi tu, il turismo e comunque il pubblico che frequenta Cortona, specialmente nei mesi estivi, è per il 70% fatto di stranieri. Allora, Daniel Pennac l'abbiamo citato, sì. Autore francese, tra l'altro anche con delle performance teatrali, sì. Visto che insomma ci piace un po' fare i nomi perché vogliamo sapere chi c'è a Cortona. Allora, qualche altro nome? Naturalmente, essendo un festival che nasce da una commissione tra naturalmente il comune di Cortona, questo comitato composto anche dal gruppo editoriale Feltrinelli, dalla fondazione dell'Orchestra Regionale Toscana, da un'accademia che si occupa di teatro, ecco, naturalmente c'è un po' di tutto. Pennac è insieme a Bjørn Larsson, l'altro grande scrittore svedese, i due grandi autori stranieri. Eh sì, sono insomma la punta, diciamo, di questa edizione. Poi però abbiamo naturalmente una grande presenza di italiani, da Michele Serra a Giuseppe Catozzella, a Piccolo, che ha vinto recentissimamente il premio Strega. Ecco, diciamo anche che non ci sono solo autori Feltrinelli in questo. No, in questo. Gli autori sono di qualsiasi casa editrice. Qualsiasi casa editrice. Qui vogliamo proprio che chi scrive di letteratura si scrive, chi maschera di questo mondo venga. E chiaramente Feltrinelli è un grande editore, per cui non è che si ferma ai propri autori. Però abbiamo anche momenti, abbiamo parlato, però abbiamo una cosa di cui siamo contenti, che nel mix oltre il mix, perché poi abbiamo questi autori che si cimentano, come hai detto, Pennac con il confronto con il pubblico proprio sulla sua letteratura, ma anche con il teatro, con un suo spettacolo. Oppure abbiamo il collettivo Wu Ming, che è famoso per scrivere libri anche di grande tendenza giovanilistica, che poi la sera si esibisce per la prima volta in concerto. Abbiamo Peppe Voltarelli, un altro grande musicista, che prima racconta del suo libro stranissimo il pomeriggio e poi suona assieme ai Modena City Rambles la sera. Sì, ecco, è proprio una commistione fra generi, e c'è anche, sì, come dire, una sorta di cambio mestiere, insomma. Sì, il cambio mestiere. E di questo siamo molto contenti. E chiaramente teniamo anche molto d'occhio lo spettacolo, e quest'anno abbiamo veramente alcune chicche, che oltre ad esempio alla presenza di Pennac, di questi grandi attori stranieri, abbiamo alcune grandi esclusive delle quali siamo veramente contenti, perché ha la capacità anche di una piccola città come Cortona, però immersa in Toscana, e quindi è quella di comunque di attirare anche dei nomi che sarebbero impensabili per una città normalmente, però il fatto di essere a Cortona, il fatto di avere una ribalta così, un festival così, fa sì che anche personaggi straordinari come un pezzo fondamentale della E Street Band, che non è solo Max Weinberg, che molti conoscono perché è anche cittadino nostro onorario, che è il batterista della E Street Band, ma quest'anno abbiamo il secondo tassello della E Street Band, che è il professore Roy Bittan, il grande pianista, che in anteprima mondiale, e questo lo possiamo dire, presenterà le sue composizioni dal vivo. Cioè non è mai stata fatta questa esecuzione delle musiche di Roy Bittan dal vivo, e si troverà un pezzo della band di Springsteen con una super band italiana a suonarlo proprio in esclusiva mondiale per la prima volta. Ecco, l'anno scorso avevate avuto il concerto di Jovanotti, quindi insomma non potevate essere da meno quest'anno. Da meno. Non potevamo essere da meno, brava, è proprio vero. Allora, l'appuntamento è per il Cortona Mix Festival, è da sabato 26 luglio a domenica, sì, 3 agosto, quindi un'intera settimana a disposizione. E ricordiamo anche il sito dove si possono vedere, ricordo, il programma, che è Cortona, la puntata più estesa del Cacciatore di Libri andrà in onda questa, perfetto, sera dopo il GR delle 22. Grazie allora ad Andrea Laurenzi, presidente del comitato Cortona Cultura Mix Festival. Appuntamento allora inevitabilmente a Cortona. Altro festival che vi segnalo è il Festival dell'Argentiera, che si terrà da venerdì 25 a domenica 27 luglio in un ex borgo minerario in provincia di Sassari. Diversi anche in questo caso gli ospiti, che si intrecciano per tematiche e per tipologia. C'è Pif, Geppi Cucciari, Claudio Bisio, Dente, insomma ce n'è un po' per tutti. E prima di chiudere vi ricordo invece, per gli appassionati di storia, che a partire da lunedì 21 luglio ci sarà in edicola, con il Sole 24 Ore, la collana I protagonisti della Grande Guerra. Sono dei volumi delle biografie dei personaggi più importanti della Prima Guerra Mondiale. da Vittorio Emanuele III a Giolitti, da Badoglio, Cadorna, Diaz, Churchill. Ogni lunedì, quindi, in edicola con il Sole 24 Ore si possono acquistare questi libri dei protagonisti della Grande Guerra. Naturalmente poi restano in vendita per tutta la settimana. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Pietro Lacorte. Come sempre potete trovarmi su Twitter come Ale Teddina, su Facebook e tutto l'archivio delle puntate del Cacciatore di Libri e anche di Romanzi in Valigia, gli speciali estivi di quest'estate 2014 su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.